Salve ragazzi, sono io, sono Tenaglia. Ho invaso, vi comunico che da questo momento ho invaso Web Radiluzzi. Ma badami! E da questo momento, cari amici, Web Radiluzzi. Quel volume un attimo dalla cassa, che è quello della radio, bene. Allora, da questo momento vi comunico che Web Radiluzzi è stata occupata dal sottoscritto. È stato effettuato un golpe dove sono stati messi in un sacchetto della spazzatura Laura e Francesco Pazzo per Licori. Mentre Carletto è stato buttato tra le mille bolle blu. Quando lo scienziato chimico l'abbiamo fatto evaporare con le sue cinesi, esatto, bolliti. Con le sue cinesi bolliti. Mentre Massimo Maneggio ora mi fa da maggiordomo e in regia c'è il mio dog sitter. Quindi da questo momento in poi, Mitch Di Bagnini è il mio artista, è l'unico che rimane vivo e che ora sto, insomma, ecco. Da questo momento in poi si parlerà solo di buone maniere. Perché questi... Buonasera, Tenaglia! Ciao, caro, vedi come è impostato bene questo ragazzo, questo giovane. Benvenuti, quindi questo è Web Radio, non so più che cazzo dire. Questa è la puntata 1.9 di Non aprite quella persiana. Cribbio! E da Tenaglia è arrivato il momento, dopo questo inizio a cazzo di trasmissione. Maggiordomo Bisignanese, ti dico di stare zitto e di non fare cagare. Lustra scarpe. Guarda, c'ho un cacca di cane sotto la mia scarpa. Dai, no, con la lingua me la devi togliere. La scarpa te la pulisce di sopra. Zerbino. Zerbino. Cane, stai zitto. Zerbino. Quindi, da ora sarà una puntata e un orario totalitarista. E quindi presenterò io 12 ore al giorno. I problemi sono Tenaglia. C'è una varietà di programma. Ma io direi di mandare il brano musicale, che non è un brano musicale che mandavano quegli idioti cretini, ma un brano musicale molto interessante. Ci troviamo fra poco con la puntata 1.9 di Non aprite quella persiana. E non sarà più la stessa cosa.